abbiamo visto Volantino, che poi è stato modificato, ma insomma gli organizzatori erano molto chiari, ma tali. Volantino è un'iniziativa benefica promossa da tre per la verità, anche c'è anche un'associazione sportiva, che Vita Peron, sono le donne sostanzialmente di Forza Nuova, da quello che dichiarano e da quello che fanno, l'associazione Aurora Italiana, che si è presentata anche alle elezioni a Budrio, organizzazione di estrema destra, la cui responsabile si autodefiniva e si autodefinisce fascista, e l'associazione sportiva Unici. Sulla base della provenienza e della cultura di questi organizzatori, abbiamo detto questa iniziativa va vietata quantomeno dal comune all'interno di uno spazio comunale. Poi se questi riescono a trovare uno spazio privato per fare la loro festa, benissimo per loro se riescono, ma non all'interno di uno spazio comunale, in un comune che è città medaglia d'argento al valore civile per la resistenza e per la lotta di liberazione. Questo per noi è un elemento dirimente, valoriale, imprescindibile, che riguarda la convivenza civile e democratica. Insomma, queste forze xenofobe e neofasciste non devono organizzare manifestazioni in spazi pubblici. Il sindaco Mazzanti si giustifica, si difende dicendo: beh, è un'iniziativa benefica per raccolta di fondi. Beh, non vedere che in tutta Europa organizzazioni illiberali, autoritarie, sostanzialmente neofasciste e xenofobe, dietro il parapetto di iniziative benefiche, diciamo, organizzano la loro presenza, il loro radicamento nel territorio, non vedere questo io credo che sia un errore per chi si autodefinisce come sindaco Mazzanti antifascista, è un grave errore politico. Un sindaco è anche un capo politico e deve metterci la faccia, deve scendere in campo. Quello che non sta facendo Mazzanti è esattamente questo. Noi crediamo, io credo, li conosco ormai da molti anni, che questo civismo, che è mischiato a grillismo un po' locale, a un approccio un po' localista, questo civismo sia un lascia passare per le peggiori organizzazioni, per le peggiori forze antidemocratiche. È un fatto. Con me non avrebbero nemmeno proposto di fare l'iniziativa, con me sindaco. Con Mazzanti hanno il lascia passare. Non lo so, esprimendo un'opinione, è un dato di fatto. Al di là della questione appunto politica dell'amministrazione, queste forze innanzitutto da un lato è una galassia che magari cambia anche nome a volte per non essere identificabile. Certo. Ad esempio i nomi Vita Peron fa meno effetto rispetto a Forza Nuova o Casa Pound. Anche i nomi dei gruppi musicali sono stati modificati apposta, lo dichiarano loro, insomma. Dall'altro, questo lavoro sociale è, come già ricordavi, una cosa diffusa in tutta Europa. È quello che ha fatto Alba Dorata in Grecia, è quello che ha fatto Casa Pound a Ostia. Non stanno magari appunto queste organizzazioni xenofobe, neofasciste, raccimolando consenso grazie a un lavoro sociale che magari non fanno più altri corpi intermedi? Probabilmente sì, probabilmente ci sono degli spazi. In politica gli spazi si riempiono in maniera fisiologica, vengono riempiti, c'è sempre qualcuno che riempie gli spazi lasciati vuoti. C'è stata una crisi gravissima e ci sono effetti che continuano all'interno delle famiglie e neanche in molte aziende. Anche se il nostro territorio sta rispondendo molto positivamente all'uscita dalla crisi. È chiaro che in quegli spazi mancano in alcuni luoghi d'Italia, a noi meno, ma insomma in alcuni luoghi d'Italia servizi sociali adeguati, mancano forze intermedie, non dappertutto, ma in molti luoghi d'Italia, forze intermedie che si pongono in qualche modo nel collegamento tra le sofferenze e le possibili risposte a queste sofferenze. Mancano forse anche in un certo campo, cioè nel nostro, nel campo della sinistra, idee per trasformare i problemi in opportunità, per trasformare un'energia che deve diventare in qualche modo un'energia costruttiva e positiva, trasformarla in qualcosa appunto di costruttivo per il territorio e per il sociale. Spesso invece tutta questa energia rimane confinata all'interno di un clima di fiducia e di dissenso, e quindi in questo contesto, magari dalle nostre parti meno, ma in altri territori d'Italia di più, forze di questo tipo, con parole d'ordine molto pesanti, riescono ad attrarre consenso e a trarre forte. Esiste sicuramente questo problema, dovremmo porcelo tutti. Se abbiamo posto con così forza questa questione a Budrio è per accendere un riflettore su questi temi. Non possono passare così liberamente, il radicamento di queste forze non può passare così in tranquillità, bisogna che ci interroghiamo e che ci poniamo anche come argine. Qualora questa manifestazione non venga revocata, che lo ricordo dovrebbe tenersi il 25 novembre, avete in mente di organizzare qualche presidio, qualche manifestazione? Allora, sappiamo che ci sono varie forze, Sinistra per Budrio, MDP, Partito Democratico, si stanno sentendo, ho parlato solo da consigliere comunale, comunale, quindi mi attengo a quello che le forze politiche decideranno di fare insieme. Sarebbe bello, visto che la FANEP e Franzoni si sono in qualche modo dissociati o allontanati dall'iniziativa, ho letto oggi sul giornale, sarebbe bello se ci fosse una mobilitazione di raccolta fondi proprio a favore di queste realtà, fatto però dalle persone sinceramente democratiche e sinceramente preoccupate dell'avanzamento di queste forze dell'ultradestra. Una raccolta fondi senza bisogno di fare una festa, ma che faccia vedere che Budrio è antifascista e democratica e a queste, diciamo, attività che vengono svolte per i bambini malati a Bologna ci tengono davvero e non le usano come paravento per il radicamento politico.